questo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, che bello, è arrivata la seconda ora del sabato del villaggio, quella che si chiama RadioTube, appunto sì. Queste puntate estive stiamo facendo un'ora e un'ora, tutte nuove nel mese di luglio, niente repliche, perché noi per tutto il mese di luglio vogliamo fare le puntate nuove. Allora, fresche. Daniele. Et Marta Cagnola, et di Bellasio, cancelletto RadioTube. Allora, Marta? Allora, abbiamo deciso tanti anni fa, ormai quattro anni fa, di tanti. Cominciare a guardare. Sì, ma sembra un secolo. Io stavo sotto i 40. Io non mi ricordo. Ma tu stavi sotto i 30, dai, piantala. Io stavo sotto i 40. Mi ricordo, dicevi? Mi ricordo che avevi fatto i 40 anni. I capelli, ti ricordi? Ti ricordo. Che cominciavamo a guardare un po' i video di grande tendenza nella rete. Sì, come fossero. E ce n'erano 3-4. Tu dicevi quello lì, quello là, quello là. Era adesso finito. I ragazzi adesso ormai hanno un loro palinsesto televisivo, sì, fatto solo di video, sì, della rete. Sì. Hanno delle celebrità che sono delle celebrità nella rete. Abbiamo, sì, parlato di tanti tipi di celebrità. Tra poco parleremo invece di due youtuber che piacciono soprattutto agli adulti, perché andremo a sentire un po', a sentire parlare, sì, di viaggi. Di viaggi. Ci sono però dei fenomeni, diciamo, stagionali. Fenomeno. No? Te lo ricordi quando c'era stato lo Ice Fenomeno. Bucket Challenge, ah beh, un certo, paio d'anni fa, che era stato poi legato peraltro alla solidarietà, alla per solidarietà, esatto, ricerca, che ci si dava in testa le secchiate di ghiaccio. Acqua. Invece ci sono dei fenomeni così assolutamente temporanei, assolutamente oziosi, perché ci sono i cosiddetti tag. Cioè, e le challenge, sai le cosa ma ragazzi, ma io ho un figlio di 9 anni. Le challenge, quella della bottiglia d'acqua, che devi far girare la bottiglia d'acqua, sai qual è la e poi deve challenge del diritta. Momento, no. La sfida del momento, no. Tutti i grandi youtuber tutti hanno fatto la The Floor is Lava Challenge. Sì. Allora, sono per pronto. Sapere che cos'è, per questo sapere, video ha passato 1.200.000 visualizzazioni. Sì. Loro sono i Me Contro Te e sono praticamente al top delle tendenze di YouTube italiane, mm-hmm, con il loro Il pavimento è lava. Ecco qua. Ciao a tutti, lui è lui. È lei, Sofì. Pensi di essere simpatico? No, scusa. Ecco. Dai, torna qui. Ecco, perché me ne andavo. Nuova challenge, ovvero il pavimento è lava. O per meglio dire, col mio inglese improvvisato, the floor is lava. Vabbè, non è improvvisato, si dice così davvero. Lava. No, the floor, i fiori, the floor, flower, sono lava, lava come lava. Ciao. Ciao. Si tratta di un gioco che sicuramente molti di voi, anzi la maggior parte di voi, avrà fatto durante la propria vita. Ovvero, a un certo punto il tuo amico dice: il pavimento è lava, e tu devi cercare un rifugio, devi saltare, arenarti in qualcosa, non so, volare per scampare alla lava. Fateci sapere qui sotto nei commenti se anche voi giocavate a questi giochi. E mi raccomando, seguiteci su Instagram e Musical.ly. Ma comunque, non aggiungiamo altro e iniziamo. Allora, quando vedrete quest'estate dei bambini che cominciano a saltare, dei ragazzini, dei ragazzi che cominciano a saltare come se fossero posseduti, è perché stanno facendo la challenge, la sfida. Ma non era tipo rialzo? Tu lo facevi rialzo? Sì, in che effetti poi c'era qualcosa, Arimo. Qualcosa, crucis, arividis. Arimo, a seconda dei luoghi geografici dove eri all'elementari, dicevi Arimo, crucis. Esatto. Questa sì, non mi era ancora arrivata. Sì, perché allora rialzo era, dovevi saltare su qualcosa, no, saltare, perché non potevi, sì, stare, non potevi toccare per terra. Non potevi toccare terra. Qui più o meno uno urla il pavimento è lava e tutti devi devono saltellare. Sì, l'hanno fatto anche i Pantellas. Immaginavo. Vabbè, dai, sentiamoci Pantel. Un pezzettino dei Pantellas, anche loro oltre fa, al forse, milione, so. Eccoli qua. The floor is lava anche per loro. Ciao ragazzi, sono Pantellas e benvenuti alla nostra prima The Floor is Lava Challenge. E che cos'è la The Floor is Lava Challenge? È una challenge dove praticamente quando ti dicono The Floor is Lava devi salire sulla superficie e non toccare il pavimento in nessun modo. C'è la lava, c'è la lava, c'è la lava. Ma andiamo a vedere cosa abbiamo combinato in questi giorni. Se fossi in America, in un altro stato non mi fregherebbe un cazzo. The floor is lava. Dove cazzo vado? Anzi, dei tappetini off macchina in slava verso il cofano. 8, 7, 6, 5, 4, 3, dove va? Ma dove va? Non ci credo. Cioè, loro sono particolarmente scemi perché hanno fatto guidando. Cioè, uno stava guidando, gli ha detto The Floor is Lava, e quindi si è dovuto accostare e salire sopra la macchina. No, però volevo raccontarti ancora sul video di prima, dei sì, me dimmi. Contro te. A un certo punto lei dice: ci seguite su Instagram e ci seguite anche su Musical.ly. Tu ce l'hai un account di Musical.ly? Non so neanche cosa sia. Cioè, adesso non riesco neanche a stare più dietro ai social, nemmeno esatto, a quello che avviene sui esatto. social. È uno nuovo. Musical.ly è questa piattaforma per cui i ragazzi, lo so che poi dimmi. Raccontata sembra un'idiozia totale, però va molto di moda, lo è, dimmi. I ragazzi si condividono dei brevissimi video di 15 secondi in cui fanno il playback di canzoni famose. Ah, beh, questo lo facevamo anche noi col mangianastri. Ho capito, con quello ma arancione, non è la stessa cosa. Ma quello arancione che mettevi dentro, il penny, no? Il mangiadischi. E poi iniziavi a cantare con quel finto microfono. Esatto, lì fanno dei video e fanno però delle sfide di playback. Io volevo playback. Fare una domanda agli youtuber, ma se puoi rispondere anche tu. Perché urlano? Perché dicono batte bise, batte bise? Perché? Aspetta, e anche aspetta, Pantella, aspetta. Pantella! Allora a questo punto io perché ti propongo urlano? Di ascoltare un video ASMR. Vabbè, ma questa è una puntata da cancellare, non ci sto capendo più niente. Ma sai cosa dopo sono qua i video no, ASMR? Non lo so. So che Matte Bise urlano. Matte Bise! No, allora invece quelli che fanno i video ASMR. Vabbè, vai. Io ti faccio ascoltare un pezzettino di un video ASMR. Andrea, tu lo sai in regia cosa cioè, sono i video? Cioè, leggono al contrario? Andrea. Tipo no, Eleneina allora, de Usaleb. Dire il tuo nome al contrario? Nome e cognome, certo. Tu non lo sai fare. Ma tutti lo sanno. Eleinato Isaleb, è ovvio. ASMR sarà dire le cose al contrario. No, no. Allora, avvertenza per l'uso. Non è il volume normale. L'ho dovuto alzare molto per farvi sentire cosa sono i video ASMR alla radio. Eccolo qua. Hey guys. Ciao ragazzi, ciao ragazze. Benvenuti in questo rilassante video. Con me oggi Alessandro e sarà una giornata un po' speciale per lui perché si sottoporrà a una serie di trattamenti un po'. Allora parlano tutti così, no? Perché? Perché? Parlano piano piano perché sono i video ASMR che sta per Autonomy Sensory, aspetta che te lo dico Motion. Bene, Autonomy Sensory Meridian Response. Okay. Allora, in realtà c'è ci sono delle ragioni scientifiche per cui c'è questo bisbiglio che dovrebbe essere rilassante. Allora sì. Ci sono questi video sì. in cui le persone fanno anche qualsiasi cosa. Non so, c'è il video di quelle che si truccano. Però tu fai un video normale e poi fai il video ASMR. Facciamo tutta la puntata così, di radio. Così perché a me mettono dei dovrebbero essere rilassanti. Io divento matta se sento. Ma sembra più che altro malizioso. Sembra, ma no, non è sembra neanche quello. Ci sono sfondo, anche No, perché si parli. No, no, dovrebbe essere rilassante ed è una roba che mi manda ai matti. Perché hanno anche tutta una tecnica perché fanno, non so, schioccare la lingua, una roba che io divento matta. Ma vedi che c'è secondo me quella roba. Non lo so, so che se cercate questi video ASMR diventate matti. Adesso faremo tutta la puntata sì, rilassante. Tutta la puntata così. Per no, che magari state stanno guidando. State guidando prima di darvi il traffico. Facciamo ve lo diamo rilassante. ASMR. Dura anche molto di più. Cioè non dobbiamo mettere meno audio se parliamo lentamente. Perché, ma no, non perché è che più non è beh, anche più lento. Una roba insopportabile. Immagina la borsa. Oggi la ne farò il prossimo collegamento esatto. con la borsa che farò sui mercati finanziari così. Che non lo so, sono tutte altri, cose abbastanza matte bise. Sono tutte cose abbastanza idiote, ma sono le tendenze del momento. Sono le tendenze. Allora, tra poco dopo scopriamo degli youtuber che non bisbigliano? No, che viaggiano. Che viaggiano. Dopo tra pochissimo, dopo il traffico non è bisbigliato, ve lo promettiamo, non è ASMR. A no, dopo. No, è normale. YouTube. E ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Dove siamo? Allora, siamo in Olanda, un ritorno alle origini perché chi di voi ci segue da tempo immemorabile saprà che questo è uno dei primi viaggi che abbiamo portato sul canale. Ebbene sì, però adesso arriva in maniera totalmente diversa, sotto nuove vesti e con i fiori. E con i trattori che passano! Giustamente siamo in mezzo ai campi. Questo itinerario è tutto nuovo ed è tutto alla scoperta di una delle fioriture più famose del mondo. Quindi iniziamo subito e vediamo dove siamo. Abbiamo parlato di youtuber di psicologia. Sì, presente. Di sport. Cielo. Di comicità. Insomma, abbiamo cucina. Cielo. Abbiamo provato, poi... abbiamo esplorato di giochi. Di giochi, cielo. Di giochi. Abbiamo esplorato un po' tutte le offerte del palinsesto, il grande palinsesto degli youtuber e anche dei vlogger, cioè di quelli che fanno i video diari. Esatto. E Daniele Bellasio ha detto, anzi, siccome è estate, sarebbe estate. Esatto. Ed estate si viaggia un sì. po' di più, non è detto, però un po' di più. Mi ha mandato una mail, ha mandato sì. a me, a Cristian Goldori, una mail col subject vlogger di viaggi ne abbiamo. Esatto. E nel corpo della mail c'era solo un link che io ho subito aperto, inviaggiocoltubo.com. Quando l'hai scoperto tu, Daniele? Allora, siccome sono stato di recente alle Faroe, ho scoperto un video molto fatto molto bene, molto spontaneo e nello stesso tempo originale, di due vlogger molto bravi che andavano a provare questo modo del nuovo del turismo faroese, cioè di gente che ti invita a pranzo, tu provi le cose che loro cucinano, ma nel frattempo racconti e capisci le usanze. Loro commentavano quello che mangiavano, ma in realtà raccontavano il paese ed eri lì, li sentivi parlare, vedevi le facce, vedevi i luoghi, le case, poi c'erano dei panorama stupendi dalle finestre. E quindi noi li abbiamo chiamati, abbiamo al telefono Martina Califano. Martina Califano, ciao Martina. Sì, ciao. E Giorgio Pirola, ciao Giorgio. Eccomi, ciao ragazzi. Dove siete intanto? In questo momento adesso... a casa. A casa, ok. Nella stessa? Sì, nella stessa casa. Ok, perfetto. Anche perché sai, noi li chiamiamo sempre in retroscena, li abbiamo chiamati da due telefoni separati, sì, perché così sono collegati, ecco, e quindi controlliamo che siano sì. nella stessa casa. Allora, Daniele, dicevi un linguaggio che ti è piaciuto molto. Intanto, appunto, abbiamo detto che sono vlogger, cioè non tengono un blog, ma un videodiario. Giorgio, come mai un videodiario, un vlog e non un blog, come hanno fatto tanti altri? Ma allora, su questo diciamo è il nostro un po' motto, quindi noi diciamo sempre è ora di vedere il mondo, quindi vlog, proprio perché vogliamo mostrare le destinazioni, non solo parlarne, perché dopo tutto noi quando cerchiamo noi stessi una destinazione vogliamo ispirarci, cerchiamo immagini e video, quindi vogliamo proporre quello che ci piace, insomma. Come avete trovato la vostra cifra, ecco. Martina? Come, cioè, vi siete messi lì e avete detto, ma siamo spontanei, se noi che cosa come così. Facciamo? Sì. Secondo noi funziona così, come? Allora, in realtà non ci siamo proprio messi a tavolino a decidere uno stile, a decidere qualcosa. Abbiamo semplicemente preso la telecamera e siamo partiti e abbiamo fatto quello che ci piaceva fare. Cioè, è stato una cioè della passione vostra di viaggiare qui? Sì. Siamo partiti con un viaggio in Australia lungo un anno e da lì abbiamo fatto diari di viaggi praticamente tutti i giorni, perché vedevamo ogni giorno una cosa nuova, cercando di dare informazioni anche ai viaggiatori che volessero visitare quelle mete e facendo vedere quelle mete stesse, perché di solito sono io che organizzo i viaggi e quindi devo cercare informazioni, poi cercare le immagini, poi è tutto complicato. Invece volevo che tutto fosse nello stesso prodotto, nello stesso video. Sono le donne che decidono, non c'è niente da fare, quelle che organizzano sono le donne. Sì, ma quindi anche il nome l'hai scelto tu? No, quello, il nome diciamo un po', ora non è che ci piace più tantissimo. No, oh, perché? Perché no? Dai, raccontateci, perché si chiama così e perché non vi piace più tanto? Beh, si chiama così perché in viaggio col tubo, viaggi sul canale YouTube, quindi era, non lo so, ci è venuto così in automatico. Beh, dai, non ci sta, Daniele, tipo Radio Cube, diciamo. No, che magari tu il nome lo scegli quando è ancora piccolo il canale, esatto. Poi diventa grandissimo, come i nostri amici che cucinano 55 Winston 55, hanno un nome complicato, ma all'inizio l'avevano scelto un po' per caso. Vero. Poi vero. Il canale diventa... dovrebbero avere un nome più generalista, vuol dire questo. No, però a un certo comune. Punto tutti gli chiedono perché questo nome, ma perché all'inizio non ci abbiamo fatto tanto caso. Però a me è simpatico. No, a me piace molto In viaggio col tubo. Ragazzi, quali mete per ora avete girato e avete raccontato, Giorgio? Ma molte. niente, diciamo, partendo dalla più recente, siamo tornati giusto 2 giorni fa dalla Bretagna, una regione della Francia. Siamo stati in Olanda per la fioritura dei tulipani, come diceva Daniele, siamo stati sulle isole Faroe. Poi beh, c'è tutto il nostro enorme diario di viaggio dell'Australia. Ti fa venire una voglia, ragazzi. Sì, diciamo che la cosa bella e brutta di poi montare i video quando siamo a casa è che riviviamo i nostri viaggi, ma dopo un po' viene anche un po' nostalgia, quindi sì. E vorremmo subito tornare, però... Poi c'è un Tahiti meraviglioso. Sì, sì, siamo stati 3 settimane in Polinesia francese girando per le varie isole. È stato uno dei viaggi più belli che abbiamo mai fatto, anche perché mentre eravamo lì siamo stati 1 settimana anche sull'isola di Pasqua, ed è un posto fuori dal mondo proprio, molto molto particolare. E che altro? Siamo stati in qualche location in Germania a vedere il famoso castello delle favole, Neuschwanstein, a Berlino. Insomma, e chi è il tecnologico dei due? Chi è che fa appunto il montaggio, le riprese? Perché poi sono anche girati bene, montati bene, spontanei, ma insomma si vede che c'è un lavoro. Grazie. Su questo ormai ci dividiamo i compiti, nel senso che ho iniziato io, prima i nostri ruoli erano molto più definiti, quindi Martina faceva le ricerche dei viaggi, io giravo i video e li montavo. Adesso per questione proprio di mole di lavoro ci dividiamo un po' il compito del montaggio, quindi Martina fa la selezione del materiale, fa un premontato dove appunto imposta la puntata, se così vogliamo chiamarla, e poi io rifinisco il tutto, facciamo il voice over, faccio la color correction, quindi proprio le cose un po' più professionalissimo, mica... Ecco, la cosa che secondo me riesce bene, per quello che mi sono piaciuti, è che... Cioè c'è il fatto di aver visto analoghe cose sulla televisione, ma c'è la voglia di innovare, cioè di andare oltre, quindi è un'evoluzione, non è che il vlog cancella l'esistente precedente delle trasmissioni televisive diciamo dedicate ai viaggi e fa una cosa totalmente diversa, no, fa un'evoluzione, questa secondo me è la cosa bella. Sì, diciamo che i nostri riferimenti sono sicuramente turisti per caso, quindi prendiamo loro come esempio, però volendo poi strutturare una cosa più come, cioè avvicinandoci al blog, quindi una cosa strutturata con informazioni di viaggio dove effettivamente le persone possano insomma trovare tutto quello che serve per poi rivivere l'esperienza come l'abbiamo fatta noi. Cosa vi chiedono le persone che vi contattano, che vi commentano? Ma la domanda più comune è come fate a viaggiare così tanto? Certo, è invidia, perché, insomma, sì. Invidia. Sì, le domande ovviamente sono più che giustificate, ovviamente noi spieghiamo che questo è il nostro lavoro e quindi altrimenti non potremmo effettivamente viaggiare così tanto. No, anche perché immagino che siccome chiunque ha gli hater in rete, voi che fate queste cose bellissime avrete quelli che dicono ma non lavorate? Ma... Sì, più che hater per noi sono curiosi, magari con un po' di invidia perché non è da tutti poter viaggiare così tanto, ecco. Però appunto nessuno mai ci ha mandato messaggi d'odio o cose di questo genere. Siamo fortunati che sino... Martina, dicevi Martina? Che hater veri e propri non ne abbiamo. Meno male. Senti, ma la prossima meta su cosa stai studiando? Di che cosa? Allora, in realtà la prossima meta sarà un viaggio con gli iscritti in Islanda. Islanda, ma vedi che sono i miei preferiti di tutti i tipi. Io devo tornare perché ho visto la parte in basso, vorrei tornare nella parte in alto a Cureri e dintorni. Noi faremo tutta la ringroad e insegneremo appunto a questi iscritti che parteciperanno con noi a fare foto e video, visto che ce lo che chiedono bello, tanto tipo come workshop, facciamo. Cioè esatto. Viaggio workshop, che bello. Ma io mi iscrivo, scusa, esatto. Quando andate? Sì, appunto a settembre. Ma io quasi. Ma occhio agli elfi, sai che lì le strade devono deviare ogni tanto perché ci sono gli elfi. Vabbè, Marta mi guarda. Ma no, favoloso. No, io sto già pensando che voglio anch'io imparare a fare la vlogger di viaggio insieme ai ragazzi di In Viaggio col Tubo. Che bello. Forse presto cambieranno nome, abbiamo scoperto. Ma no, oggi. A me piace, ragazzi, tenetelo. Sì, a me sì. Piace tantissimo. Sono molto contenta di aver conosciuto questi vlogger davvero, non lo so... Daniele, mi hai fatto conoscere... Vedi, sono bravo. Sì, bravo. Sì, sì, sei stato veramente molto bravo. Grazie ragazzi, buon viaggio. Grazie Giorgio, grazie Martina. Buon viaggio e buon lavoro, a presto. E noi ci fermiamo un attimo per sognare. Noi ci fermiamo un attimo, una pausa, sì, sogniamo un viaggio, poi saremo ancora insieme. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. YouTube. E ritorniamo insieme. Da un po' che non parliamo di calcio, no, Daniele, perché è d'estate, d'estate. Vabbè, voi appassionati comunque seguite tutte le robe del mercato. Poi noi interisti vinciamo sempre il campionato d'estate, quello del calcio mercato. Ah, quello però, che però poi partite da favoriti a settembre, dite che è il mio anno. Ci piace sognare, diciamo, e in luglio-agosto sognare è gratis, è da agosto in poi. È bellissimo, però siccome tra poco ci dicono i calendari e siccome tra poco, insomma, si entra nel vivo, io pensavo che potevamo ricominciare a parlarne. Ma certo, però, ma certo. Però siccome siamo alla radio del Sole 24 Ore, non è che possiamo parlare di calciomercato, cioè si fa, ma in altre trasmissioni. No, no, certo, anche ecco. Perché se aspettate me che parli calciomercato, so solo che c'è Donnarumma, che si è parlato, vabbè, solo di Donnarumma. Lì non solo per il calciomercato, la maturità, no, soldi, certo, le cose. Certo, certo, certo. Tu l'avresti presa la maturità al suo posto? Ma sì. Cioè, io forse alla fine sì, sai, sì, ma forse non, alla fine sì. Non voglio farla moralista. No, neanche io, esatto, dai, forse stavo pensando la stessa cosa. Sì, se rispondi sì, ti viene da fare il... A parte che se mi ascolta Rocco e dico di no, donc, ah no, esatto. Certo, sempre quindi tutte direi le di scuole. Sì. Quindi direi di sì. Però noi non vogliamo parlare di questi aspetti. No, noi vogliamo parlare dell'aspetto, passata, diciamo così, più legato al potere, all'economia, alla finanza, al mondo e alle nuove tecnologie. Allora, raccontami un po' qual è la notizia che ti ha colpito. Allora, le notizie sono queste. Che sempre più spesso, noi fino, tu che ti occupi tanto di palinsesti televisivi, di, fino a un po' di anni fa, le notizie legate ai diritti del calcio erano tutte, come dire, riferite a Mediaset, la Rai. Beh, infatti la settimana scorsa ne abbiamo parlato, esatto. La Champions. Adesso invece inizia a essere sempre di più questo tipo di notizia collegato a Twitter vuole i diritti dei mondiali, Facebook vuole, no, in quel caso erano le Olimpiadi, insomma lo sport intreccia i diritti televisivi con i social network, quindi è il nostro pane. Ma certo, beh, hai detto poi un'altra cosa che ti ha colpito, che sono state due le notizie che ti hanno colpito. Oddio, l'altra me la ricordo, dimmela. No, me l'hai detto tu, sono due notizie. Vabbè, ma io a una certa età non mi ricordo più quasi vabbè, niente. Vabbè, ormai è diventato anziano. Allora, direi che questo argomento che merita di essere approfondito con un esperto, merita di essere così sviscerato e deviscerato come i pesciolini dal nostro super super esperto del Sole 24 Ore, colui il quale sa proprio tutto di calcio e anche di soldi che girano intorno al calcio e in particolare ultimamente è uscito con un bel librone che si intitola I veri padroni del calcio, così il potere e la finanza hanno conquistato il calcio mondiale, edito da Feltrinelli nella serie bianca. Sono contenta di poter avere collegato con noi il leggendario Marco Bellinazzo. Ciao del Marco. Sole, peraltro, eh? Ciao Marco. Ciao a tutti ragazzi. È da un po' ciao. Che non ceniamo insieme in mensa però, eh? Beh, sai, sono molto impegnato in questo periodo. Oh. No, non è vero, è solo una questione di mancate coincidenze. Sì, insomma, non ci stiamo incontrando. Non ci siamo incrociati. Allora, questa cosa dei diritti TV con delle nuove nuove frontiere è vera? È strana, perché per qualche anno era solo quale TV compra. Sì, infatti, guarda, il calcio e più in generale lo sport sono diventati il luogo in cui si sperimenta il futuro e quindi le nuove tecnologie sotto tutti i punti di vista diventano centrali e a proposito appunto di veri padroni di calcio, capisci che poi chi può controllare il calcio e tutte le sue dinamiche può anche fare tanti soldini, per questo c'è tanto interesse e appunto anche i cosiddetti over the top, i vari Facebook, Google, Twitter hanno iniziato a interessarsi già da un po' per la verità ai diritti del calcio prima ancora a quelli della NFL, del football americano, di cui trasmettono già alcuni match, quelli del giovedì della scorsa stagione, li hanno proiettati insieme a cosa? Insieme ai commenti degli spettatori, perché l'idea centrale qual è? Quella di poter coniugare l'interesse per gli sport con l'interattività, con la socialità. E quindi diciamo si stanno facendo questi esperimenti per cui tu hai sostanzialmente l'immagine della partita che scorre live e a fianco, sotto, insomma, scorrono invece i commenti su Twitter o le interazioni con i tuoi amici, puoi imprecare contro il tuo centravanti che sbaglia un gol, piuttosto che insomma tifare per la tua squadra, condividerlo con gli amici, e questo dovrebbe chiaramente aprire tantissime nuove porte per godersi lo spettacolo calcistico e per giovere le top, per fare ancora più soldi in concorrenza poi quindi con i tradizionali broadcaster e con le stesse telco, perché anche le grandi aziende di telecomunicazioni sono interessate al calcio, lo sono sempre più. Pensate che già 10 anni fa British Telecom ha tentato di prendere i diritti del calcio, sia della Premier League, poi c'è riuscita con quelli della Champions, e oggi se andiamo a guardare lo scenario di chi ha i diritti della Champions, per esempio in Francia SFR, quindi un'altra telco, c'è grande interesse telefonica in Spagna, in Italia c'è un po' più di complesso gioco tra Mediaset, Telecom, Vivendi, insomma, che si sta sviluppando, però anche in Italia, insomma, con la diffusione maggiore della banda larga potremo vedere questa concorrenza aperta, diciamo, a tutti i grandi operatori delle telecomunicazioni. Marco, ma in che cosa può consistere il diritto di un evento sportivo venduto a un social network? Cioè video o cosa? Contenuti speciali? Cosa potrebbe essere? L'interazione che raccontava, poi? Però, insomma, l'interazione già si fa, sì, ma che sì. Tipo potrebbe essere un diritto da acquistare? Cioè, intanto è complementare o concorrente con quello allora, della televisione? Allora, intanto, per esempio, Fox ha ricevuto la richiesta da parte di Twitter, di Facebook, negli Stati Uniti, di acquisire per esempio le immagini dei mondiali di calcio del 2018 e del 2022. I classici broadcaster costano tanto, Fox ne ha pagati 400 milioni per gli Stati Uniti, rivendendoli potrebbe chiaramente abbattere questi costi. La scommessa dei cosiddetti over the top, ripeto, è quella da un lato di fare la trasmissione in streaming, quindi online, quella mobile, tanto per intenderci. Giusto. Quindi ci sarà la trasmissione negli Stati Uniti via cavo per gli abbonati, ma quella sugli iPhone, sugli iPad o su quello che la tecnologia poi ci proporrà. E in più alla trasmissione si offriranno servizi aggiuntivi che ci stanno appunto sperimentando. Questo dell'interattività è diciamo legata a qualcosa che già esiste, ma i grandi maghi appunto americani stanno pensando a nuovi prodotti da offrire in funzione proprio dei diritti sportivi, su cui c'è grande riserva, ma che veramente potrebbero rivoluzionare il mercato e cambiare completamente le nostre abitudini. Ecco, ma Marco, per far capire anche chi non è esperto di calcio, non segue questo mondo, fatto 10 il potere economico del calcio, quanto sono i diritti televisivi? Beh, varia un po', nel senso che alcuni paesi come l'Italia purtroppo sono teledipendenti, tra virgolette, per cui il fatturato, diciamo, se la Serie A fattura in totale 1,8 miliardi, 1,2 miliardi vengono dai diritti TV. Oh, okay. Quindi diciamo c'è grande dipendenza, ma in generale diciamo che tra il 30 e il 40% dei diritti, diciamo degli incassi dei club, viene appunto dai diritti TV, comunque una fetta molto molto consistente. Noi che abbiamo stati fatiscenti e strutture commerciali diciamo ancora poco sviluppate a livello internazionale, abbiamo più dipendenza, però è evidente che la partita cruciale si gioca proprio intorno ai diritti TV, alle sponsorizzazioni, alla visibilità appunto degli sponsor, e quindi è una partita cruciale, ripeto, e per il mondo sportivo, per i club e per i grandi operatori di telecomunicazioni, broadcaster e gli operatori internet, che su questo versante sono convinti insomma di poter aumentare ancora di più i loro profitti. Ed è un versante in grande crescita, perché il mondo dello sport è cresciuto nei suoi giri d'affari, nel fatturato, e anche in questi anni di crisi a doppia cifra. tranne che in Italia, aggiungo, purtroppo con un po' di questo rende più povero anche il calcio, nel senso di calcio giocato. Assolutamente sì, perché arrivano sempre meno soldi e quella che era la Serie A, cioè il campionato quello del mondo negli anni 80 e 90, oggi è il quarto campionato d'Europa e speriamo di no, insomma potrebbe essere tra qualche tempo nella parte bassa, ecco, della top 10 dei campionati di calcio più belli del mondo, perché intanto cresce quello degli Stati Uniti, cresce quello della Cina, la Francia ci sta col fiato sul collo, insomma bisogna muoversi, però se si fa fatica, capisci, a eleggere anche un presidente di Lega, certo. siamo lontani dall'essere competitivi, purtroppo. Efficienti. Come scrivi tu, insomma, nel tuo libro I veri padroni del calcio, è tanto una questione di politica. Se il governo del calcio è sempre più nevralgico per i proventi miliardari che gestisce, è diventato altrettanto cruciale sul piano politico. Ma ti faccio un domandone: ma il vero padrone del calcio un tempo non era Maradona? Era Maradona, perché c'erano soltanto i soldi, diciamo, del botteghino, e quindi chi aveva Maradona aveva lo stadio sempre pieno e poteva sicuramente considerarsi un padrone del calcio. Poi sono arrivate le TV, è diventata un'industria miliardaria, ma soprattutto negli ultimi 5 anni, 5-10 anni, mettiamola così, si è capito che non solo questa è una grande industria, ma anche un grande strumento politico, uno strumento di legittimazione. Pensate a cosa vuol dire vedersi per un paese, diciamo, che non è ancora uno stato riconosciuto, per una nazione in cerca di legittimazione, vedersi assegnata un tavolo all'interno della FIFA e quindi poter avere una nazionale di calcio che disputa le Olimpiadi piuttosto che il campionato europeo mondiali, come recentemente per esempio è accaduto al Kosovo con grande clamore in Serbia e in Russia, che non volevano, piuttosto che ad esempio si sta parlando molto del riconoscimento della Palestina dal punto di vista calcistico, e questo potrebbe essere davvero un elemento dirompente a livello geopolitico. Quindi ecco, bisogna conoscere, essere a passo con i tempi e avere consapevolezza di questi fenomeni. In Italia credo che ce ne sia ben poca di consapevolezza di quanto è importante il calcio e lo sport. Non sono solo un pallone che rotola. Questo è il bello del tuo libro, I veri padroni del calcio, che non è un libro che devono leggere quelli che seguono il calcio, è un libro che devono leggere quelli che hanno interesse nella politica internazionale, certo, perché il calcio è un comune, diciamo, denominatore di un sacco di storie che però sono storie di equilibri internazionali, di geopolitica, giusto Marco? Sì, di equilibri, di squilibri, si parla per esempio tanto di cosa rappresenta il calcio nell'Islam, amato, odiato, combattuto dalle fazioni più radicali, si parla di quello che è il ruolo del calcio nella Cina, quindi questi aspetti sono molto delicati per capire chi veramente comanda, e ormai sono alcuni governi, alcune autocrazie che utilizzano il calcio non come strumento di propaganda, come strumento mediatico, come strumento di, ripeto, di legittimazione, ma chi invece ha in mano le leve della democrazia deve poter avere consapevolezza di questo e difendere anche il calcio. Questo è un po' il messaggio del libro, insomma, che spero possa essere letto molto sotto gli ombrelloni, insomma. Infatti sto dicendo, secondo me ombrellone è una di quelle letture che intanto poi ti fanno anche così incontrare il vicino di ombrellone, perché mondi, dice cosa mondi. Stai leggendo, sì, esatto. E scatta anche la conversazione. Grazie. Se sono, scusate, interisti rossoneri possono anche leggere tutte le loro storie del perché le loro squadre sono finite in mani cinesi, e soprattutto possono capire da quello che ho scritto qual è il futuro immediato, insomma. Lo so. O nell'altro. Grazie Marco Pellinazzo, bravissimo collega del Sole 24 Ore, mio faro nella notte per quanto riguarda le vicende di calcio e non e solo. Anche Mensa, quando mio compagno di cena quando andiamo a Mensa insieme. Ciao Marco. E quindi noi? Allora noi una brevissima pausa, breve. Poi siamo ancora insieme per uno spicchietto di Radio Tuba, tra poco. YouTube. Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano, la notte è giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, una vita reale. Sotto il sole, sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi prendo. E non ci penso più, e non ci penso più. Io non lo so se questa riccione mi ha conquistato oppure no. Per te è il tormentone dell'estate? No, ti ricordi che noi avevamo detto, e infatti il nostro ospite che abbiamo al telefono l'aveva detto, attenzione che ci saranno le sorprese. Noi un po' di tempo fa avevamo voluto fare il punto sul possibile tormentone dell'estate. Sì, però abbiamo detto, allora del vero ci aggiorniamo. Ci aggiorniamo, perché magari alcune squadre non erano ancora scese in campo per giocarsi l'asso, anche perché tra l'altro... questi dei giornalisti avevano già Pamplona. Allora avevamo promesso che avremmo fatto un punto della situazione del tormentone, perché lui ci ha detto guardate che aspettate che presto aspettate. Aveva ragione lui. Allora torniamo a collegarci con Paolo Giordano, critico musicale del giornale Grandissimo, amico del nostro sabato. Ciao Paolo. Eccomi, ciao a tutti. Tra l'altro noi ci siamo visti pochi giorni fa, poi ti chiedo qualcosa. Esatto. Abbiamo passato dei momenti molto intensi a Modena. Allora come la vediamo questa riccione arrivata così tac, tra una cosa e l'altra? Riccione in questo momento è la più trasmessa, no? Se non sbaglio, dalle radio, e sta andando benissimo, oggettivamente sta andando benissimo, è uscita al momento giusto. Ovviamente bisogna cantare la fine di Despacito, perché mi sembra piuttosto in ribasso come tormentone, previsto, cioè Despacito ha avuto proprio la fine fisiologica del brano primaverile, cioè che appena fuori ci sono 500 gradi sparisce, si scioglie come un gelato, e quindi Despacito rimane ovviamente nella memoria di tutti, ma non è più così trasmesso, e adesso sta arrivando sia, diciamo... c'è il tormentone geografico quest'anno, no? Pamplona. Ripassiamo esatto. La geografia. Esatto. Però sì, funziona. Devo dire che tra tutti i brani dei giornalisti è quello più smaccatamente mirato, è proprio programmato, è dressed to kill, cioè proprio vestito per uccidere, fatto apposta. A me di solito questi brani dai gruppi che hanno una storia o che vogliono avere una storia convincono poco dal punto di vista musicale, però effettivamente funziona. Beh, un po' furbona, furbona, e devo dire che cioè Tommaso Paradiso in questo periodo, cioè non lo so, dilaga. L'uomo più popolare d'Italia, dilaga, cioè è Pamplona. A me una cosa che ha colpito moltissimo è stato Fibra, che ai Wind Music Awards sul palco dell'Arena di Verona ha consigliato al proprio pubblico di comprare il disco dei giornalisti, definendolo il disco dell'anno. È qualcosa di, insomma, inedito, nel senso che è difficile che un artista promuova un altro artista, anche se ha duettato con lui o anche se ha avuto delle collaborazioni con lui. Ma definirlo il disco dell'anno è veramente qualcosa di, insomma, grosso, anche per un pubblico di Fibra che con quello dei giornalisti ha poco a che vedere, insomma, ovviamente. Però Paolo, non ritieni ci sia anche una componente molto forte di bravura proprio di Tommaso Paradiso, nel senso che lui in questa fase, anche come utilizza i social network per esempio, sembra proprio incarnare, dico una parola brutta, però diciamo lo spirito dei tempi, cioè la voglia di rialzare un po' la testa, sorridere un po', ok, cazzeggiare, ma anche essere indipendenti. Comunque dei giornalisti nascono con quella parola che non ti piace, indie, insomma. Anche secondo me è diciamo, detto alla romana, un po' piacione, nel modo più onesto, anche perché è la sua verve. Paolo, c'è un altro tormentone secondo me che sta prendendo quota, che è Senza pagare di J-Ax e Fedez. Brava. Quello lì anche lì tra quello, capo e collo c'è piazzato, ci si è piazzato questo. E se ci pensate, sono almeno 3 anni che Fedez con J-Ax da solo indovina uno dei brani dell'estate. Questo è abbastanza un'apertura di credito a lui. Sì, Senza pagare, che esce da un disco non nuovissimo, è comunque un brano che sta funzionando molto, perché intercetta il pubblico che quando va, gli ascoltatori che quando vanno a comprare o a mangiare devono guardarsi quanti soldi hanno nel portafoglio, come, sì, come si dice nel testo. A proposito di dischi usciti un bel po' di tempo fa, non, sì, ti chiedo di Vasco, ti chiederò tra poco, ma di Ligabue, perché Made in Italy è uscito ormai, brava, un secolo e mezzo fa, ma, brava, questo, quando l'abbiamo sentito la prima volta tutti insieme, sì, io ho detto, ah, questa mi piace, che era Ho fatto in tempo ad avere un futuro, me ne sono innamorata all'istante, gran singolo, sta uscendo alla grande. Allora, Marta, io e te siamo in sintonia molto spesso dal punto di vista musicale, ma stavolta ancora di più, perché questo brano, quando è uscito, io l'ho ascoltato ovviamente nel disco, ma era, diciamo, nascosto dentro a tutto il resto, nella trama del disco, nella, insomma, nella, in questa sorta di concept di Ligabue. Quando l'ho ascoltato in radio, mi sono accorto che il testo di questa canzone, Ho fatto in tempo avere un futuro che fosse più grande di me, insomma, Ho fatto in tempo perdere tempo, sono cose ispirate che Ligabue non scriveva così da un bel po'. Io qualche giorno fa, che avevo un momento di tristezza, me lo sarò ascoltato 20 volte in un pomeriggio, ma almeno 20 volte. Guarda, io me ne rendo conto perché anche a me è capitato di riconoscermi in alcuni versi del testo che sembrano scritti per me, e credo che valga per tanti altri. E di Ligabue belli anche i complimenti a Vasco. Certo. Noi ci siamo visti nel magico giorno di Modena. Beh, non poteva dire diversamente, perché a Modena è stato il concerto perfetto, sì, diciamo la verità. Sì. Allora, da quando sono salito sul palco, siamo saliti sul palco prima, sì, che arrivasse Vasco, e ho visto che non vedevo, cioè non vedevo la fine. C'erano dal fronte del palco fino alla cosiddetta ultima fila, erano 347 metri di gente. Cioè tu non vedevi la fine. È incredibile questo. Siamo scesi dal palco totalmente ubriachi, faceva caldo ma non caldissimo, non pioveva, nessun problema di sicurezza, suono perfetto, concerto perfetto. Boh, io raramente nella mia carriera ho avuto occasione di andare a concerti così intoccabili dall'inizio alla fine. Quando è finita Alba Chiara, che sono partiti anche a metà di Alba Chiara, sono partiti i fuochi d'artificio, io, essendo come nella legge di Murphy, anzi cito Fantozzi, come Fantozzi, immediatamente sotto dove c'erano i fuochi d'artificio, no, quindi mi sono preso, non sto scherzando, è stata praticamente, Marta, tu lo sai, una guerra mondiale, cioè i fuochi d'artificio sono stati più o meno come l'attacco a Dresda, cioè mi sono piovuti addosso tutti i rimasugli di fuochi d'artificio, no? Perché avevo perso l'appuntamento con la navetta per andare via e sono rimasto lì. Realmente sono uscito, ero coperto di cenere, ma sono andato a piedi da lì all'albergo con altri colleghi e abbiamo fatto una camminata di mezz'ora. Sì. Bellissima, con la città con di Modena. Tutti con i telefonini che si riguardavano, i video appena, esatto, girati. Con la città di Modena che... Giustamente qua bisogna dare veramente atto al sindaco che aveva tolto i mezzi, cioè si andava solo a piedi, tutta la gente che defluiva, quindi decine di migliaia di persone che attraversavano la città in silenzio, felici, si guardavano le immagini, parlavano del concerto, scherzavano, vedevano, non c'erano, diciamo, i soliti residuati un po' intossicati, diciamo così, che di solito si vedono a concerti di questo tipo, e era veramente era la musica come dovrebbe essere sempre. L'unica cosa che mi sento di dire, perché io poi a un certo punto ho fatto un giro tra il pubblico, anche in fondo, anche un po' così, in certe radure un po' più isolate, si può dire, che secondo me tra 9 mesi molti bambini si potrebbero chiamare anche nelle prime file abbiamo visto scene, diciamo, sì, così. Infatti subito Bellagio mi fa, hai lanciato anche tu il reggiseno? No, non dire così. Ma voi ce l'avete il reggiseno, fammi godere. Io no. Perché, io sì, Però ti posso dire tutte le battute di Bonolis. Io in perché lui l'ha vista in TV. Però poveraccio, lo difendo, perché è ovvio che anch'io lì era il concerto. Era il concerto perfetto, poveraccio. Lui doveva fare... È stato mandato allo sbaraglio e lo difendo perché sì, ha fatto... Ma sì. Poi, va bene, la camicia non era bellissima. Ma chi se ne frega, poveraccio. Se ne frega, certo. Sì, certo. No. È stato mandato allo sbaraglio in un contesto in cui davvero dalla finestra dietro Bonoli si vedevi il paradiso, cosa poteva fare. Grande Vasco, grande Vasco. Grande Paolo Giordano, io sono sempre molto contenta quando posso andare ai concerti con Paolo e di poterlo ogni tanto ospitare al Sabato del Villaggio a Radio Tube, perché è veramente, secondo me, non solo la penna più affine a me, ma anche umanamente vedete che anche lui ha le stesse belle sensazioni di fronte alla musica, senza parlarne da ragioniere. Sono sempre molto contenta del cuore che ci mette Paolo Giordano. Paolo, grazie. Ciao. Per essere stato con noi. Come siete umani, ciao. Ecco, esatto, ciao. Un bacio grande a Paolo Giordano. E noi, Marta, ci vediamo a Riccione, direi. Ci vediamo a Riccione, ci vediamo anche la prossima settimana per un'altra puntata di Radio Tube. Al prossimo sabato. Ciao.